Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il recente decreto liberalizzazione ha spianato la strada alla diffusione delle scatole nere anche a bordo delle automobili. In gioco c'è la possibilità di ridurre drasticamente le truffe alle assicurazioni e di conseguenza i premi assicurativi per chi accetta di installarle. Ma alle opportunità fanno da contraltare anche alcune complicazioni e Chiara Albicocco ne ha parlato con Vittorio Verdone, direttore di ANIA, l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici. Sentiamo com'è andata. Sono strumenti elettronici dotati di meccanismi GPS, quindi collegati poi a strumenti di rilevazione satellitare, che registrano l'attività del veicolo. E diciamo le potenzialità sono tantissime, perché si può andare dalla fornitura di assistenza immediata in occasione di un incidente, oppure, e questo è un po' lo scopo anche della norma che si è voluta inserire nel decreto Crescitalia cosiddetto, il famoso decreto liberalizzazioni del ministro Monti, l'utilità di impiegare queste informazioni che vengono registrate da questo meccanismo ai fini dell'individuazione dell'incidente stradale per quanto riguarda i risvolti assicurativi, perché questi strumenti danno la possibilità di innanzitutto dare certezza del giorno, del luogo e ecco, del sinistro c'è stato. Infatti, quali sono i parametri che registra? La velocità, una possibile frenata improvvisa, la traiettoria ovviamente del veicolo e cos'altro? Sono dotate di un accelerometro, quindi al loro interno, oltre alla individuazione e localizzazione del veicolo, c'è un ulteriore strumento che registra le forze inerziali, quindi collegate a una centrale queste scatole nere consentono di capire a che velocità c'è stato questo impatto in termini proprio di accelerazione, e quindi questo serve molto per ricostruire non solo le dinamiche dei sinistri con la localizzazione, le provenienze, ma anche e soprattutto che forza di impatto c'è stato, e questo è importante a fini antispeculativi o antifrode, perché spesso a tamponamenti a bassa velocità corrispondono richieste di risarcimento per danni alla persona che non risultano compatibili. Con un tamponamento a 5 km all'ora, facciamo un esempio, in fila al semaforo, io lamento un danno alla persona, il che è un po' incompatibile. Sì, in questo modo si annullerebbero un po' tutte le possibilità di truffa, appunto, a danni dell'assicurazione, ed è un po' questo anche il motivo che ha inserito, diciamo, queste scatole nere all'interno del decreto, perché appunto risulterebbe in qualche modo che faccia risparmiare in un certo senso l'assicurazione e quindi poi anche l'assicurato. Esattamente così, ovviamente c'è una condizione e speriamo che ci siano in ascolto anche i giudicanti, cioè i magistrati, i giudici di pace. La condizione è che gli elaborati di questi risultati da una centrale operativa poi valgano e vengano valutati nei giudizi che si instaurano, perché se no altrimenti è una prova che non viene valutata e quindi si ricomincia da capo. Il risparmio ci potrebbe essere in termini di costi. Ecco, noi, più o meno ci fa capire quanto? Ma in termini di costi dico il risparmio per il sistema RC Auto, perché se riusciamo a combattere un po' di questi effetti speculativi si riducono i costi e quindi i prezzi. Per quanto riguarda il consumatore, ci sono già nel mercato diffusi contratti abbinati a scatole nere che danno anche dei risparmi interessanti in termini di premi pagati, risparmi che vanno dal 20 al 25%. Ecco, ovviamente, poi magari se la cosa diventa ovviamente diffusa, un pochino può anche aumentare questa percentuale, immagino, perché a quel punto ci sarebbe anche una responsabilizzazione, come dire, dell'autista che dice, vabbè, insomma, io monto la scatola nera, però non è che posso andare come un pazzo. Bravissima. E quindi c'è proprio questo senso di prevenzione, no, del rischio, perché io sono comunque in una condizione in cui, sentendomi in qualche modo controllato da un sistema, sono indotto anche a comportamenti sia più prudenti proprio sulla strada, e ce ne vuole, come sappiamo, sia in termini di, diciamo, comportamenti etici. Mi dica se sbaglio, ma all'interno del decreto queste scatole nere dovrebbero essere, come dire, a carico delle compagnie assicurative. Sì, il decreto prevede che l'installazione della scatola nera dovrebbe essere a carico della compagnia. Ora, dietro questa polizza in realtà esiste un articolato modello, perché le compagnie non producono scatole nere, le compagnie si devono avvalere di fornitori di scatole nere e soprattutto di coloro che le installano, le disinstallano nel caso in cui il contratto cessi, quindi c'è una filiera di costi che ovviamente nell'attuale articolazione del business sono tali per cui il vantaggio per il cliente c'è sempre, per cui orientativamente oggi già avviene che la compagnia in vario modo si tiene a carico il costo di installazione o l'acquisto della scatolamina, perché già avviene, cioè non ricade sull'assicurato. Perché spesso i produttori di questi, coloro che le installano, diciamo le società, sono 3-4 in Italia, danno questi strumenti in comodato d'uso gratuito, e quindi in questa fase, perlomeno nella maggior parte dei casi, il cliente già non paga i costi di installazione. Si pone un problema se si dovesse invece pensare che tutti i costi siano a carico delle compagnie, perché se fosse così posso dare meno sconto poi sul premio. E quindi l'elemento di novità di questo decreto sarebbe in qualche modo standardizzare questo sistema, diffonderlo. Sì, l'elemento di novità è diffonderlo, perché addirittura noi abbiamo, partecipando anche a un'audizione in Parlamento, avanzato l'ipotesi che addirittura questi strumenti siano già in dotazione dei veicoli immatricolati. Questo diciamo che sarà previsto a livello europeo nel 2015, già tutti i veicoli di nuova omologazione avranno già una predisposizione per il montaggio di una sorta di optional come il navigatore. Sì, ovviamente qui si pone altro problema, può essere obbligatorio questo sistema, perché qui entriamo nel campo della privacy. Se fosse obbligatorio i vantaggi sarebbero ancora più ingenti, perché tutti i veicoli dotati di questi sistemi non si sfuggirebbe. Sarebbero registrati, certo. Certo, basta un consenso informato. Solo una precisazione onde evitare fraintendimenti. Installare la scatola nera a bordo dell'auto non significa che tutti i propri spostamenti vengono tracciati e registrati da qualcun altro. I dati infatti rimangono custoditi all'interno e solo all'interno della scatola nera. Ma naturalmente ciò che può accadere è che una persona abbia un incidente mentre si reca in un luogo che vuole tenere nascosto. Ecco allora che, aprendo la scatola nera per valutare la dinamica dell'incidente, questo fatto emergerebbe subito. È qui che sta il problema legato alla privacy. Per ora è tutto, appuntamento a domani.